Questo è un podcast di Rivista Militare. La doppia via dei droni cinesi, tra il futurismo del GJ-11 e il revival del G6, di Marco Lupis. Così Pechino prepara l'assalto, alta tecnologia da portaerei e vecchi caccia convertiti in droni kamikaze per la saturazione delle difese di Taiwan. Nel teatro strategico del XXI secolo, la guerra dei droni non è più una questione di se, ma di come. Mentre gli Stati Uniti e i loro alleati perfezionano l'uso di sistemi unmanned, con un'enfasi sulla precisione e la minimizzazione del rischio umano, la Cina percorre due strade parallele e complementari che rivelano molto della sua dottrina operativa e delle sue ambizioni regionali. Il drone stealth di ultima generazione, GJ-11 Sharp Sword, da una parte, e la riconversione in massa dei caccia sovietici J-6 in droni kamikaze dall'altra. Due strategie radicalmente diverse. Una punta sulla superiorità tecnologica, l'altra sulla logorante potenza dei numeri. Ma entrambe convengono su un solo scenario: l'invasione di Taiwan. Un drone per regnare sui mari, il GJ-11 Sharp Sword. Alla parata del giorno della vittoria a Pechino ha sfilato in testa alla colonna aerea il GJ-11 Sharp Sword, UAV stealth ad ala volante sviluppato per l'Esercito Popolare di Liberazione, PLA. Ma lo stesso velivolo aveva fatto parlare di sé mesi prima, quando immagini del suo profilo alare sono apparse sull'emblema della nave da assalto anfibia Type 076 Sichuan, la prima portaerei per droni cinese dotata di catapulta elettromagnetica. Il GJ-11 è molto più di un drone, è il simbolo del salto generazionale dell'industria bellica cinese. Un'arma pensata non solo per operazioni di ricognizione, ma per penetrare in profondità le difese nemiche, condurre missioni ad alta complessità e colpire bersagli strategici in autonomia. Caratteristiche chiave del GJ-11. Stealth, design ad ala volante e presa d'aria S per ridurre la firma radar. Autonomia, algoritmi AI gestiscono decollo, navigazione, ricognizione e attacco. Dimensioni: 10 metri di lunghezza, 14 metri di apertura alare, 10 tonnellate al decollo. Modularità: progettato per essere imbarcato, può essere lanciato da navi d'assalto o portaerei. Ruolo operativo: strike profondo, attacco a sistemi radar, guerra elettronica, supporto alla prima ondata di invasione. Con queste capacità, il GJ-11 non è solo un moltiplicatore di forze, ma uno strumento di first strike, capace di agire prima che i difensori nemici possano reagire. Potrebbe, ad esempio, eliminare i radar a lungo raggio taiwanesi o neutralizzare postazioni antimissile, aprendo la strada ad attacchi più massicci e tradizionali. Il drone è prodotto da Hongdu Aviation Industry Group e si inserisce nella strategia di informatizzazione del PLA, cioè l'integrazione di AI, big data e guerra elettronica nei sistemi di combattimento moderni. In un eventuale scontro nel Pacifico, il GJ-11 rappresenterebbe l'avanguardia tecnologica della Cina contro la rete difensiva USA, Taiwan, Giappone. Dal rottame al drone kamikaze, la resurrezione del J-6. All'estremo opposto dello spettro tecnologico si colloca il programma di riconversione dei vecchi J-6, caccia di seconda generazione costruiti in Cina dagli anni 60 agli anni 80 su licenza sovietica del MiG-19. La Cina li ha trasformati in droni da sacrificare in massa. Secondo quanto presentato all'ultimo salone aereo di Changchun, questi velivoli, fino a ieri relitti obsoleti, sono stati svuotati dei sistemi da pilota, armati di sistemi di volo autonomo e riadattati come droni kamikaze, esche radar o bombardieri improvvisati. Il loro obiettivo: saturare il sistema difensivo taiwanese e renderlo cieco. perché i J-6 dronizzati sono una minaccia concreta. Numero: la Cina ha a disposizione migliaia di cellule di J-6 stoccate, si stima oltre 3.000. Costo minimo: bassissimo investimento per un drone che può causare lanci multipli di missili difensivi costosi come i Patriot. Velocità: Mach 1.3, sufficiente per raggiungere Taiwan con carichi da 250 kg. Saturazione: possono operare in sciami per forzare l'attivazione dei radar e rivelarne la posizione. Immunità elettronica: la loro avionica limitata li rende meno vulnerabili a disturbi o armi a energia diretta. Usati come esche, i J-6 possono accendere i radar taiwanesi e consentire al PLA di localizzarli e neutralizzarli. Usati come droni kamikaze, possono colpire piste, radar, depositi o caserme. E in caso di abbattimento? Nessuna perdita significativa per Pechino. Non è fantascienza. Il primo J-6 convertito volò già nel 1995. Segno che la Cina ha lavorato su questa strategia da anni. Una dottrina combinata: saturare, penetrare, colpire. Analizzando insieme il JJ-11 e i J-6 dronizzati, emerge una dottrina chiara. Prima si saturano le difese nemiche con sciami sacrificabili. Poi si colpiscono bersagli strategici con droni di precisione invisibili. Infine si apre lo spazio per gli aerei con pilota e missili convenzionali. Taiwan, con una delle più alte concentrazioni di sistemi di difesa aerea del mondo, è il bersaglio ideale di questa combinazione. L'ex tenente generale taiwanese Shuai Huamin lo ha detto chiaramente: «Non temo i missili Dongfeng, temo questi droni». Perché con uno sciame di centinaia di J-6 e una manciata di JJ-11 a guidare l'attacco, la possibilità di difendersi diventa limitata, costosa e rapidamente insostenibile. Riscrivere il concetto di superiorità aerea. Mentre le forze occidentali investono su pochi droni iperavanzati e costosissimi, vedi i programmi USA Loyal Wingman o NGAD, la Cina dimostra che la quantità, se ben coordinata, può sostituire la qualità. In un conflitto breve ma a alta intensità, come quello previsto nello stretto di Taiwan, la logica della perdita accettabile diventa centrale. Meglio perdere 1.000 droni obsoleti che un solo J-20 o un pilota esperto. Implicazioni geopolitiche e il ruolo degli USA. Washington osserva con crescente preoccupazione la trasformazione dell'apparato militare cinese in una forza autonoma e numerosa. Cambia il bilancio di potere nella regione Indo-Pacifica. Se la Cina può mettere in campo migliaia di unità unmanned, anche solo per coprire le prime fasi di un'invasione, gli USA e i loro alleati devono ripensare radicalmente le loro strategie difensive. Già si parla al Pentagono della necessità di investire in sistemi antidrone mobili e scalabili. Droni killer per la neutralizzazione aerea. IA difensive per la gestione automatizzata degli attacchi a sciame. Ma la verità è che almeno per ora Pechino ha il vantaggio dell'iniziativa. Tra rottami e robot, la Cina sta scrivendo il futuro della guerra. Il dualismo tra il JJ-11, macchina da guerra ultra tecnologica, e il J-6, relitto dell'URSS trasformato in drone suicida, è più che una scelta di arsenale. È una filosofia militare. Una filosofia che non si basa sul valore della singola unità, ma sull'effetto sistemico. In questo senso, Pechino non vuole solo vincere una battaglia, ma definire un nuovo paradigma operativo in cui droni intelligenti e droni sacrificabili operano in concerto per paralizzare e distruggere il nemico. E se la Cina deciderà davvero di riunificare Taiwan con la forza, questi droni, vecchi e nuovi, potrebbero essere i primi a varcare lo stretto. il podcast di Rivista Militare, vi dà appuntamento al prossimo episodio.